Mix 24 di Giovanni Minoli. Sono circa 50 le ordinanze di sfratto emesse ad oggi dal Comune di Roma nel tentativo di mettere ordine nella gestione del suo patrimonio immobiliare, una fonte di reddito che ha ad oggi fa registrare solo perdite e tra i presunti colpevoli nessuno escluso, privati, cittadini, sedi di partiti, politici, associazioni, tutti più o meno a scrocco di mamma Roma. La radiografia di Giovanna Corsetti. Comincia così l'affittopoli romana, 43.000 immobili proprietà del Comune di Roma che rendono poco più di 27 milioni di euro, vuol dire un canone medio di 50 euro al mese, mentre sono oltre 138 milioni di euro che il Comune spende ogni anno per pagare i suoi affitti, 100 milioni le perdite e sui primi 574 appartamenti presi in esame, 8 casi su 10 sono fuori legge, abitati da inquilini morosi, occupanti abusivi, affittuari con canoni ridicoli per vivere nei luoghi più esclusivi di Roma, in pieno centro storico, Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Navona o Borgo Pio. Qui siamo a Fontana di Trevi. Signora, posso disturbarla un minuto? Sono una giornalista, posso disturbarla un attimo? Chi ci sbatte la porta in faccia ha sempre pagato poche decine di euro per un appartamento con vista fontana nel palazzo dove ha vissuto il presidente Pertini. C'è anche la targa. Scendiamo, entriamo in un bar sulla piazza e qui la discussione è tutta sulle case del comune. La responsabilità è tutta del Comune di Roma. La responsabilità è del Comune di Roma. Che se la vuole prendere con chi ci abita, con i cittadini, la colpa è dell'amministrazione, perché c'è un'amministrazione che deve controllare i contratti. Quando scade un contratto io lo rinnovo. Lei no? Vergogna. Le case le hanno date alla gente che non si poteva permettere l'affitto qui, le hanno date a quelli. Quindi signora, secondo lei era gente che per reddito aveva diritto a stare in quelle case? Ma non ha potuto. Non ho signora! Vai a Centocelle, vai a Prima Valle, vai dove pare, a Fontana di Trevi, dallo a chi ti può permettere di pagare un affitto adeguato di 5, 7, 8. Adesso non lo so. Anche perché trovi le persone quel prezzo prendono. Signora, lo sa lì quanto pagano? Ci indicano una terrazza e degli appartamenti dall'altro lato della piazza, proprio di fronte a quelli in affitto per poche decine di euro. Pagano 20.000 euro al mese. Ha capito? 20.000 euro al mese. Contro i 30. E dai. 30 euro. Quella terrazza. Quella è stata di Liz Taylor, Richard Burton, Domenico Modugno. I più belli del mondo li abbiamo visti. Io la vedevo Liz Taylor qua. L'affittopoli romana, anche sedi di partito tra gli stabili del patrimonio immobiliare capitolino in locazione a canone stracciato. Un comune che ha accumulato debiti per oltre 12 miliardi e che oggi ha un piano di rientro di 500 milioni l'anno, con tagli per il 2016 di 180 milioni. Vuol dire che solo queste prime verifiche, i primi 100 milioni di perdite, coprirebbero oltre la metà dei tagli. Mentre alla ricognizione perdite mancano ancora molte zone di Roma e migliaia di appartamenti. E il commissario Paolo Francesco Tronca precisa che si andrà fino in fondo. Ora si tratta di analizzare posizione per capire quando è partito il singolo affitto, come è partito, da chi è partito. Il 4 febbraio, a pochi giorni dall'esplosione del caso, interviene anche l'ex sindaco Ignazio Marino. Ciò che il commissario del governo Renzi ha astutamente portato alla ribalta è quello che noi abbiamo messo nel marzo 2015, quindi un anno fa, sul sito del comune. Basta cliccare affitti e locazioni e c'è proprio l'elenco. Ma non c'è solo mamma Roma. Si tratta piuttosto di mamma Italia, perché affittopoli, locali di prestigio a prezzi ridicoli, c'è stata e c'è un po' dovunque nel nostro paese. È il 2011 e Milano scopre che per vivere in centro, vista Duomo o sulla galleria Vittorio Emanuele, se la casa è del comune bastano poche centinaia di euro l'anno, quando sul mercato i prezzi sono 5, 6, 10 volte più alti. Comune di Milano, Policlinico e Pialbergo Trivulzio, tre enti e migliaia di proprietà immobiliari che dalla fine degli anni 70 finiscono a prezzi stracciati nelle mani di VIP, giornalisti, imprenditori, primari o dirigenti degli stessi enti proprietari e spesso anche gli unici a conoscenza dei bandi di assegnazione. Il 22 febbraio 2011 si dimette il presidente del Pialbergo Trivulzio, Emilio Trabucchi, l'uomo a cui per anni molti hanno chiesto aiuto per avere una casa da ricchi in zone esclusive di Milano al prezzo per i poveri. Perché poi in questa vicenda ci sono gli inquilini, soggetti privati che in realtà sono gli amici degli amici, che vengono favoriti. nell'ambito di una vendita di un immobile di un ente pubblico. Chi ci parla è l'avvocato Piero Magri, difensore del Più Albergo Trivulzio, costituitosi parte civile nel processo penale. Il 1 febbraio 2016 la sentenza di primo grado. Cosa ha stabilito, avvocato Magri? Un'indagine che nacque sulla base degli affitti, poi però il processo penale, che si è concluso in primo grado da poco, si è incentrato solo sulle vendite degli immobili. Vendite del patrimonio, vendite degli immobili illegittime. Avvocato Magri, vendite illegittime perché? Sono stati riconosciuti illegittimi gli sconti che non si potevano dare, soprattutto a persone poi che non ne avevano bisogno. Da qui nascono i due reati principali, che sono l'abuso d'ufficio e la truffa nei confronti proprio dell'ente nel suo complesso. Quali sono state le condanne, avvocato Magri? Sono stati condannati diversi rappresentanti, sia il presidente del Consiglio di amministrazione dell'epoca, sia alcuni direttori generali. E con quali pene, avvocato Magri? Per Trabucchi, presidente del Consiglio di amministrazione, 2 anni e 10 mesi di reclusione. Poi condanne un po' più basse. Oltre la condanna, diciamo, di natura penale, ci sono state delle importantissime statuizioni civili. Avvocato Magri, cosa sono le statuizioni civili? Il Tribunale ha stabilito anche un risarcimento del danno, sia morale, sia di immagine, sia patrimoniale, quantificando in via definitiva un danno per le truffe di 1.300.000 euro. Avvocato Magri, a cosa corrisponde esattamente questa somma? La differenza proprio tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo di vendita effettivo. E questo 1.300.000 euro, avvocato Magri, sarà risarcito direttamente dagli ex amministratori del Più Albergo Trivulzio? Esattamente, la presidente e la direttore generale. Ebbene, tratta di una delle prime volte che per una condanna per questioni pubbliche vengono quantificate in via definitiva cifre così alte. Avvocato Magri, in questo modo mi pare che non ci sia un rischio di prescrizione. Esattamente, spesso viene rinviata l'liquidazione al giudice civile e poi a volte si arriva, a volte non lo si fa, eccetera. E così, avvocato Magri, chi sbaglia paga. Si è ribadito il principio che chi sbaglia paga e si è chiarito come. 1.300.000 euro il danno quantificato e riconosciuto in via definitiva al Più Albergo Trivulzio dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Milano. Una sentenza dunque che può fare la differenza. E ora continuiamo il viaggio di Giovanna Corsetti nell'affittopoli italiana. È una casa del comune questa? Ma ci sono anche a fianco, bussate a fianco. Volevo sapere quanto pagate voi, da quanto tempo ci state. Questa è Napoli, precisamente Posillipo, 4 palazzine di proprietà del comune vista mare, del genere vedi Napoli e poi muori, affittate anche qui a poche decine di euro al mese. E non è il solo caso, secondo l'architetto Troncone, un consigliere comunale che nell'autunno del 2014 ha condotto un'indagine sui beni del comune di Napoli. Sandro Fucito, assessore al patrimonio per il comune di Napoli. È così? Anche a Napoli c'è un problema riguardo gli affitti? Ma certo che c'è, e c'è per 300 beni che sono stati assegnati dal 95 ad oggi con pacche sulle spalle degli assessori, letterine fatte dai presidenti delle circoscrizioni, procedure inventate. Questi 300 immobili sono gli unici casi? C'è un problema su altri 500 beni occupati o utilizzati in modo distorto. Assessore Fucito, vuol dire che ci sono abusi e morosità? Le morosità sono una cosa seria, che già nel 2006 riguardavano 180 milioni di euro. Ho capito, assessore Fucito, il problema lo avete trovato, ma la vostra giunta è in carica da 5 anni. Il comune continua a perdere soldi. Voi cosa avete fatto? A questo abbiamo dato una risposta. Siamo per radio, qui c'è la delibera generale sulle morosità. E con questa delibera chi è moroso finalmente pagherà e sarà un prezzo giusto? Paga il quantum che noi oggi apprendiamo dalle valutazioni che nel frattempo sono state fatte con decorrenza degli ultimi 5 anni, perché questo lo dice il codice civile. Speriamo sia la volta buona, e intanto da Milano parte una nuova denuncia proprio sulle morosità. Mattia Calise, consigliere 5 Stelle. L'indagine riguarda le case pubbliche di proprietà del comune di Milano. Abbiamo fatto un'analisi sugli affitti e in particolare sulle morosità, cioè quanto non viene pagato al comune. Mattia Calise, cosa avete trovato? Centinaia e centinaia di famiglie, anzi migliaia, o famiglie o ristoranti che hanno debiti tra i 25.000 e i 50.000 e oltre i 50.000 euro. E nonostante questo il comune non li sfratta. per un totale di 204 milioni di euro. Questa cifra, consigliere Calise, i 200 milioni di euro, come l'avete calcolata? I 204 milioni sono di 5 anni, quindi tutto quello che noi dovremmo riscuotere, ma che in realtà non viene riscosso di fatto. Consigliere Calise, ma gli affitti, i prezzi sono giusti? I prezzi sono diversi da quello di Roma, non troviamo i 14 euro per la sede del partito, per intenderci. Cioè, quindi anche se c'è un affitto congruo, questi non pagano e rimangono dentro. Chi sono i morosi, consigliere Calise? Cioè, è gente che l'affitto potrebbe pagarlo o no? Questo è l'argomento più scottante. Non solo abbiamo trovato che ovviamente i poveri li sfrattiamo, ma che i ricchi, gente che dichiara fino a 98.000 euro di ISEE, o un altro ancora che ha 2 milioni di euro sui conti, ha una casa popolare che fa rabbia di per sé, ma che non pagano neanche le rate. Questi dovremmo buttarli fuori subito. Mattia Calise, da quanto tempo vanno avanti queste situazioni? Dal 2006, di fatto, queste situazioni permangono. Cioè... Consigliere Calise, diceva che ci sono anche locali pubblici e ristoranti tra i morosi, tra quelli che non pagano. Sistematicamente, magari un ristorante, un negozio che ha un affitto in una struttura pubblica, non paga, accumula centinaia di migliaia di euro, in quel caso sono 200, 300, 400 mila, e ovviamente questo è rilevante anche per la concorrenza sleale. Su questo però, consigliere Calise, l'assessore al patrimonio per il Comune di Milano ha dichiarato provvedimenti a breve. Quindi ci va bene la risposta che stanno facendo qualcosa, l'assessore, però... ci sembra un po' strano che abbiano iniziato questi accertamenti a 3 mesi dalla fine del mandato, dato che sono già 5 anni lì dentro. Roma, Milano, Napoli, milioni di euro che da decine di anni i comuni non incassano, nonostante molti abbiano debiti e siano costretti a tagliare i servizi o aumentare le tasse dei cittadini che invece le tasse le pagano. E oggi anche la nostra Sora Cesira, come sempre, affronta il tema di Affittopoli, ma lo fa naturalmente a modo suo. Forza, bambini delle case popolari, cantate insieme a me. C'è una casa con terrazzona, si affaccia proprio in Piazza Navona, ristrutturata tipo amatore, ha pure il cesso nell'ascensore. Uno si aspetta chissà che spese, invece costa 100 euro al mese. Io ve lo chiedo tanto così, indovinate chi abita lì. Con un contratto di grande cuore ci vive il figlio di un senatore. Che meraviglia, quante fortune gliel'ha segnata il mio comune. C'è una casa assai piccina che invece il cesso ce l'ha in cucina. 28 metri senza pretese, la dividiamo con un cingalese. Poiché il comune non ci si fila, ci costa appena euro 2000. Casa di un ente, forse un bel dì, che graduatoria che ci sta lì. Figurati. Sarebbe bello, bello davvero, ma siamo ancora al numero zero. E poiché siamo poco importanti, abbiamo 6.000 persone avanti. C'è una morale molto bellina in questa dolce mia storiellina. L'appartamento non ti è assegnato se c'hai un cognome poco adeguato. Quindi ti avviso, nei tuoi orizzonti c'è un bel campeggio sotto ai ponti. È un po' affollato, meglio così, perché non c'è il camino lì. Ma per i tizi che hanno imbrogliato c'è un posticino ben più adeguato. Dei localini tipo dimore, un po' a Re Bibbia, un po' a San Vittore. E adesso Alessandra Fiori, come sempre, ci racconta cosa vale la pena fare, leggere, vedere, ascoltare durante questo fine settimana. Pasolini è l'intellettuale più citato e meno letto d'Italia. Quanto in vita era imprendibile e imprevedibile, quanto dopo la morte è stato ricoperto di banalità. La politica l'ha letteralmente sbranato. La sinistra, la destra, i cattolici, gli estremisti, i giustizialisti, i complottisti, gli ambientalisti, i propagandisti della decrescita felice. Ognuno ha preso il pezzo che più gli faceva comodo e l'ha dilatato sino a ricomprendere totalmente l'immagine. Ne sono venute fuori tante figurine ottime per il marketing culturale, editoriale e politico, in cui l'opera di Pasolini si trasforma in un souvenir. A scriverlo è Nicola Mirenzi, in Pasolini contro Pasolini, che raccontando usi e abusi ai danni del dell'intellettuale nel dibattito pubblico contesta quella particolarissima ideologia che gli è stata costruita intorno, il pasolinismo, appunto. Allora, Nicola, partiamo proprio dalla politica. Tu dove lo collochi, Pasolini? Politicamente, secondo me, Pasolini è sostanzialmente incollocabile. Lui si collocava nella sinistra marxista, ma era un marxismo eretico. Pasolini è l'intellettuale più impolitico di tutti, anche se usato dalla politica in tutti i modi, l'ha fatto la destra, l'ha fatto la sinistra. Ecco, ma la strumentalizzazione più disonesta, allora, secondo te, qual è stata? La più disonesta è stata quella che hanno fatto in un certo ceto intellettuale della sinistra, che ha scambiato la sua analisi sulla mutazione antropologica dell'Italia, l'ha scambiato con l'immagine di Berlusconi, mentre invece in Pasolini l'idea della mutazione antropologica riguardava tutta la società, invece una parte del ceto intellettuale della sinistra, anziché guardarla in sé, vedere cosa c'era che era mutato antropologicamente in loro, l'hanno messa fuori di sé in Berlusconi e in tutto quello che c'era nell'Italia che loro odiavano. La più vigliacca, allora? Secondo me la più vigliacca è stato l'uso che è stato fatto della poesia il PC ai giovani, cioè la classica poesia in cui si dice che Pasolini era dalla parte dei poliziotti contro gli studenti. In realtà nessuno si prende la briga di leggere quella poesia, che dice molte altre cose anche molto contraddittorie, perché dopo aver detto Pasolini che stava con i poliziotti contro gli studenti, dice che naturalmente lui è contro l'istituzione della polizia. Ecco, secondo me quella è stata la più vigliacca, perché ha praticamente reso Pasolini una specie di intellettuale organico alla polizia, mentre invece gli scontri che lui ha avuto con la polizia, con la magistratura, con l'apparato, diciamo così, repressivo dello Stato italiano è stato fortissimo. In un capitolo del tuo libro tu ricostruisci il rapporto tra Pasolini e il movimento gay. Lui, l'intellettuale omosessuale più famoso d'Italia, non è mai diventato un riferimento per quel mondo. Perché? Perché l'omosessualità di Pasolini è sostanzialmente incompatibile con l'idea della coppia omosessuale risolta, felice, che si è affermata. Pasolini viveva la sua omosessualità addirittura come una colpa. In sostanza il movimento gay non è mai riuscito ad attingere all'omosessualità di Pasolini per poi rivendicare appunto la normalità. E poi perché Pasolini usava la sua omosessualità per dire di essere assolutamente diverso da tutti, mentre invece il movimento omosessuale fa il movimento opposto, cioè quello di dire noi siamo uguali agli altri. Aggiungerei che il movimento omosessuale ha criticato fortemente l'omosessualità di Pasolini. Pasolini diverso da tutti. Per te chi era Pasolini? Uno degli ultimi ribelli della cultura specialistica, uno che si ergeva a cercare di vedere la società, la cultura, la politica nel suo insieme. Questo ci ha dato quello che vengono chiamate le visioni di Pasolini, cioè delle immagini fortissime che erano capaci di sintetizzare, anche a volte di semplificare le cose, ma costringendo tutti gli interlocutori a confrontarsi. Comunque è chiarissimo, leggendo il tuo libro, che l'unico modo per riscoprire veramente Pasolini è ripartire da Pasolini. Allora ti chiedo, da quale opera di Pasolini consigli di ripartire? Le lettere luterane e gli scritti corsari. Grazie Nicola Mirenzi, Pasolini contro Pasolini, Lindau. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Te lo dico subito, avevano finito i biglietti per le suffragette e quindi non sono potuta entrare. No, Donatella, suffragette! Tra l'altro proprio questo marzo sono 70 anni dal primo voto alle donne in Italia. Le suffragette però, no, se erano finiti i biglietti, io sto vedendo un altro film che è bellissimo. Bene, Donatella, qual è allora questo film bellissimo che sta vedendo? Room, come liquore. No, room, che vuol dire stanza. Ecco perché io credevo di vedere un film sugli alcolismi. Infatti, questo film racconta di una mamma e un figlio che sono prigionieri di uno psicopazzo che li tiene dentro uno scantinato. E Jack, il bambino, non ha mai visto il mondo. Mamma, ho 5 anni. 5 anni? Sono grande. Proprio grande. Sì. Lo sai che cosa faremo oggi? Cosa? Prepareremo una bella torta di compleanno. Lei ha scelto di dire a Jack che la stanza era tutto il mondo e che non esisteva nient'altro. Buongiorno lampada, buongiorno pianta, buongiorno lavandino. Volevo fargli sentire che era al sicuro, che era un bel posto dove vivere. Hai capito? È terribile, ma pure bellissimo, perché è terrificante, ma pure delicato. Ecco. È colpita, Donatella? Da che? È dal film, Donatella, da che? Ah, di tradimento? Beh, sì, tanto, perché è pure pentoloso, eh? Infatti, a un certo punto la mamma e il bambino organizzano la fuga. E allora, insomma, ci sta tutto dentro questo film, che poi l'hanno preso da un libro, su una storia vera. Ci pensi? È il bestseller di Emma Donoghue. Eh sì, vabbè. E dicono che il regista, per fare il film sul libro, ha scritto all'autrice di questo e una lettera di 10 pagine. Chissà che c'è scritto sopra. Comunque, cioè, questo bambino, te lo dico, è bravissimo, però pure la mamma è brava. E infatti Brie Larson ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione in Room. Senta, ma Donatella, insomma, mi sembra di capire che valga la pena vedere Room di Leni Abramson. Sì, sì, sì, perché ti fa proprio rivalutizzare le cose. Relativizzare? Sì. Grazie, Donatella. Rivalutizzare. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ed ecco la smamma, Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale, buongiorno. Allora oggi, di che parliamo oggi? Allora oggi parliamo che, dato che noi smamme non ci facciamo mancare niente, oltre ad avere tutto quello che già ci siamo dette le altre volte, per cui i figli, il lavoro, il marito, il frigo, la macchina, il pesce rosso, eccetera, spesso abbiamo anche un cane. Però alla fine il cane è quello che nei momenti più difficili, nei momenti di sconforto, nei momenti bui, ti sta a ascoltare e ti vuol bene, perché il cane è così. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Ti sei commossa? Molto, molto, molto. Però tu che il cane ce l'hai, lui ti rende felice perché ti ama proprio spassionatamente. Ma tu cosa fai per lui per renderlo felice? Fai sul serio? Sì, dillo. Beh, la lista è lunga, andiamo al parco, ci tiriamo la palla, mangiamo insieme, un sacco di cose. Vedi, faccio. Sei egoista, perché non hai mai pensato che magari anche lui, come tutti noi, forse vorrebbe innamorarsi, cercare cane. Un'anima gemella, un cane gemello. Ma hai ragione, guarda, perché non ci ho pensato al cane che si deve innamorare, Ale? Hai ragione. Però ci hanno pensato, si vede, altri padroni meno aridi e meno egoisti, che hanno fatto una app che si chiama Teen Dog. Teen Dog? Mi ricorda qualcosa? Che mi ricorda? Ti ricorda qualcosa perché è fatta apposta per far conoscere i cani. Tu fai una foto al tuo cane, la metti su questa app e contemporaneamente a te ci sono altri padroni che hanno messo altre foto e si vede se i due cani matchano insieme. E poi i padroni anche si matchano, perché ci devono essere i padroni. Non è che il cane esce di casa da solo e dico un appuntamento su Teen Dog. Sì, in effetti il padrone ci deve essere. E quindi in pratica, per chi non osa iscriversi a Tinder, c'è sempre Teen Dog. Esatto, perché come sai, da cosa nasce cosa o da cane nasce cane. Però nel tuo caso no. Tu hai un problema. Quale? Non hai il cane. Me lo impresti tu, però. E certo. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Dove andiamo? Oggi in Puglia. Niente Sicilia. No. Niente Catania. Diciamo l'altra Sicilia, che è la Puglia. La Puglia la conosco. E la musica scelta apposta è quella del celeberrimo Pinocchio. E il vero Pinocchio non è quello di Collodi, tantomeno Dio ce ne scampi quello di Benigni, ma quello di Carmelo Bene. E questa musica mi serve per presentarti e portarti al cospetto di un grande poeta, Michelangelo Zizzi, che però per me è Aziz. Buongiorno, buongiorno a voi. Michelangelo, lei esce con La resistenza dell'impero a circa un decennio dalla sua ultima opera, Del sangue occidentale, sempre con lieto colle libri nella collana Il Graal. Ecco, ma cosa significa La resistenza dell'impero? Resistenza lo leggerei proprio etimologicamente, quindi come res sisto, quindi stare su una cosa, ma dove cosa non è esattamente un oggetto, cioè può essere anche invece un luogo, un modo, una relazione. È probabilmente uno stato, anzi, qualcosa che si fa, che sta avvenendo, come l'innamoramento, come la passione per una condizione del metafisico. Impero è l'emperi greco, è lo stare nella forma. Quindi la resistenza dell'impero è un tentativo poematico di stabilire questa condizione. Aziz, una cosa, nel segno del sud dei santi, sì. Una domanda maliziosa, nel nome della poesia, chi, sì, secondo te, tra i cosiddetti poeti a noi contemporanei, invece che cantare, raglia? Un nome, uno solo. Rondoni più che ragliare dovrebbe cinguettare, cinguetta molto male, ma comunque questa è una domanda cattiva. Ma è una buona. Milo De Angelis tra i viventi, sicuramente. Grazie, un omaggio alla poesia, al sud del sud dei santi, il grande Michelangelo Zizzi, a Zizze. La resistenza dell'impero, Lieto Colle Libri. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Musica con Franco Schipani. Ciao Franco. Buongiorno Alessandra. Questo che stai sentendo, cara Alessandra, è Joe Jackson. Io conoscevo il pezzo, ma non Joe Jackson. Parlamene, Franco, chi è? È un musicista inglese molto, molto bravo, polistrumentista, compositore, e fa parte di quella New Wave che alla fine degli anni 70, insieme ad Elvis Costello e Graham Parker, che tu ovviamente conosci. Certamente, ma certo. Ecco, era la seconda o terza invasione della British Wave negli Stati Uniti. Andavano forte un po' in tutto il mondo. Lei è stato nominato moltissime volte per i Grammy Awards. Quante? Penso, cinque volte. E quante volte ha vinto? Non ha vinto mai, però ha vinto un sacco di altri premi, ma tanti. Però c'è tanti, DiCaprio, tanti. Quindi c'è speranza. Quindi è brava, la speranza è l'ultima a morire. Allora, venerdì 4 marzo al Teatro Corso di Mestre alle ore 21, Joe Jackson. L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. E quanto si è divertito Francesco De Gregori a fare questo disco, perché finalmente lo ha svelato che il suo idolo è stato sempre Bob Dylan. Lo sapevamo un po' che il suo idolo era Bob Dylan. Sì, lo sapevamo, però non l'aveva mai detto neanche in modo così proprio sfacciato. Comunque ha fatto molto bene, perché ha fatto delle versioni molto belle di queste canzoni. Sai che non è facile fare le canzoni di Dylan in italiano. Lui veramente ci è riuscito, ha fatto una cosa molto ma molto bella. Poi lui, sai, grandissimo autore che ha vinto diverse volte riconoscimenti, appunto al Club Tenco, preso, vabbè, per noi De Gregori è un mito, una leggenda, un mito vivente, assoluto. E lo sentiamo, lo possiamo ascoltare? Lo possiamo ascoltare sabato 5 marzo all'Atlantico di Roma alle ore 20 in punto. Due appuntamenti da non mancare, perché ne vale la pena. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. Lucio Dalla è stato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani. Siamo d'accordo, Alessandra, su questo? D'accordissimo. Ecco, poi la morte del padre, il rapporto con la madre, che insomma c'era ma non c'era dentro casa, poi un'infanzia fatta di amici che poi sono diventati i suoi compagni di vita, i primi passi di questo enfant prodige, poi il suo grandissimo amore per il jazz, un poeta geniale dalle melodie veramente graffianti, gli anni del silenzio e quelli dei grandi successi, concerti memorabili e collaborazioni con i protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale. Una storia straordinaria, ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.